All'amor tuo, fanciulla, altro amore io preferia. È un'idea l'amante mia, cui detti braccio e cor. Il mio cuore aborre sfida i potenti della terra. Il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppresso. Codardo all'oppresso, perché amiamo l'eguaglianza, ci chiamarono malfattori, ma noi siamo lavoratori e padroni, non vogliamo dei ribelli, sventoliamo le bandiere insanguinate. Vera libertà, e innalziamo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo, e nel dì che vinceremo, braccia e cor ti donerò. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo, e nel dì che vinceremo, braccia e cor ti donerò, e nel dì che vinceremo, braccia e cor ti donerò.